Ben ritrovati da Alessandro Milan, voglio salutare per la nostra intervista di oggi l'eurodeputato della Lega Matteo Salvini. Buongiorno Salvini, ben ritrovato. Buongiorno a chi ci ascolta. Reduce ovviamente da Pontida e di questo parliamo. Oggi la Padania titola ultimatum al governo, ma cosa vuol dire? È un ultimatum a tempo o a cose da fare? Ci sono alcune richieste, perché mia nonna mi insegnava che chiedere è lecito, rispondere è cortesia. E visto che noi siamo persone educate, però le richieste sono accompagnati dei tempi, quindi non è che uno sul ritiro dei soldati dalla Libia, dall'Afghanistan o dal Libano ci può dire se ne riparliamo fra 2 anni, oppure sul fatto che i comuni che hanno risparmiato quattrini li possano reinvestire, ci possa rispondere fra 2 anni. Ci sono alcune settimane, alcuni mesi di tempo, iniziativa per iniziativa, e quindi ultimatum è una parola un po' forte, però... La gente che ho incontrato ieri e approfitto di Radio 24 per ringraziare, perché nonostante i gufi c'erano decine di migliaia di persone a Pontida ed è stata una bellissima e stupenda giornata al di là della politica. Detto questo, è gente che ha fretta, è gente che soprattutto ha nella questione economica e non nella giustizia la priorità di questa mattina che... durante la quale si è alzata per andare a lavorare. A proposito di questione economica, il messaggio più serio è arrivato, secondo lei, è stato mandato a Berlusconi o a Tremonti? Perché il legame Tremonti-Lega è un legame molto solido, mentre il legame Bossi-Berlusconi è sempre a fasi alterne, no? Ugualmente solido, ma... Berlusconi è il garante, ovviamente in questi 2 giorni, perché Pontida non è solo stato domenica, ma anche il sabato con migliaia di giovani in camper, in tenda, con cui abbiamo chiacchierato. La popolarità di Berlusconi non è ai massimi, anzi, mi sembra che sia il contrario, però è il Presidente del Consiglio, è il garante, quindi Berlusconi è il garante, Tremonti è colui che cura il portafoglio, lo cura bene, come spiegate anche voi da Radio 24, per certi versi, per il patto di stabilità, il fronte europeo, eccetera, eccetera, però il problema è che si sta strangolando buona parte dell'economia, soprattutto dell'economia che produce a nord, quindi... Tu puoi tenere i conti a posto e poi portare a Bruxelles un bel cadavere, ma una volta che sei morto c'è poco da avere. Però oggi Salvini, Sole 24 Ore, per esempio, questo provvedimento su cui voi spingete, non so, stop alle ganasce fiscali, come no? Le ganasce fiscali fino a 2.000 euro, Bossi ha detto finalmente, però oggi sul Sole 24 Ore si scopre che fermando le ganasce fiscali i comuni, i sindaci hanno entrate in meno e quindi insomma poi la coperta dove la tiri? Ma se qualcuno ha l'avventura o la disavventura, come è capitato a me più di una volta, di andare a fare la fila in Equitalia o in Agenzia delle Entrate per delle cartelle non esatte, quindi io non sto, chi evade, chi è accertato che evada, la ganascia dovrebbe averla sulla caviglia, non sull'automobile, ma chi è congruo rispetto agli studi di settore, ma nonostante questo si vede chiedere 80.000 euro, cosa che mi è capitato di riscontrare più di una volta, ecco, lì Equitalia fa strozzinaggio. Se si sono recuperati 20 miliardi di euro dall'evasione fiscale, bene, dalla grande evasione fiscale, però se Equitalia significa andare a strangolare i piccoli che sono già sull'orlo della crisi di nervi, perché è questo, e se oggi mandate delle vostre, sì, dei vostri inviati... Fa strozzinaggio addirittura Equitalia. Sì, in alcuni casi mi sento di dire che si tratti di strozzinaggio, perché con i deboli si è bravi a fare i forti, poi se hai ragione ti danno ragione dopo 2 o 3 anni, intanto tu sei fallito, tu hai chiuso l'azienda. Ma voi, non so, difendete le mucche che non possono essere sequestrate agli allevatori, che però sono quelli che magari hanno sforato le quote latte, quindi... No, noi difendiamo coloro che hanno le mucche vere, perché in Italia fra le tante, fra i falsi invalidi, i falsi ciechi, le false patenti, i falsi concorsi, ci sono anche le false vacche, che appunto andava a danneggiare coloro che producevano veramente. Stiamo parlando di 5.000 aziende agricole, non stiamo parlando di 50 amici di Salvini, quindi salvare 5.000 aziende agricole significa salvare anche quello che bevono i nostri figli e andare a scovare le mucche finte che c'erano in altre zone del paese. Senta, lei si è molto inalberato quando il sindaco Alemanno ha definito una boiata quella del trasferimento dei ministeri al nord. Adesso magari il termine è molto duro, anzi sicuramente è molto duro, però obiettivamente, cioè pensare di trasferire dei ministeri al nord sembra quasi una cosa di propaganda. Ma guardi, innanzitutto non è una priorità, nel senso, la priorità è trasferire a nord i soldi, a nord, in tutta Italia, sui territori che poi li gestiranno bene o male, decideranno i cittadini, denaro e competenze. In linea di principio uno Stato federale, ad esempio, ha un ministero dell'agricoltura visto che l'agricoltura è al 70% a nord, piuttosto che il turismo potrebbe avere la sua testa più che a Roma, a Napoli o a Catania, ma non è la nostra priorità. Io mi sono inalberato col sindaco di Roma, che ha tutto il diritto di dire che le idee della Lega sono boiate, per il fatto che un sindaco che guida una città che ha 10 miliardi di euro di debito, più che occuparsi e preoccuparsi di chi vuole toccare qualcosina a Roma, dovrebbe spiegare al resto dei cittadini italiani come andrà a coprire quei 10 miliardi di euro di debito pubblico, tutto qua. Per questo si è arrabbiato. Senta, invece Maroni presidente del Consiglio, e questo striscione l'hanno visto tutti. Ah, per me da leghista e da milanista sarebbe un sogno, anche perché... Ma come sta dicendo che Bossi... Cioè, voglio dire... Bossi... ho capito, però Bossi... Bossi non... era, è e rimarrà il più a lungo possibile... il segretario discusso della Lega Nord, colui grazie alla cui intuizione siamo qua a parlare stamattina, certo, su Radio 24. Però lei è un maroniano, si sa, lei è un maroniano. No, io sono un leghista. Ieri ho trovato sul prato di Ponti, da parte tanta gente, c'erano alcuni poliziotti che erano lì per lavoro, evidentemente non con le bandiere verdi, erano lì in divisa, 40 gradi, e ci abbiamo chiacchierato e sottovoce mi dicevano: ringraziate il ministro per le motivazioni che ci sta dando. Quindi evidentemente Maroni, seppur il momento sia complicato e difficile, è stimato e apprezzato, penso anche al di là dei confini della Lega. Insomma, il suo sogno. Ma il fatto che la sinistra oggi dica, non so, sull'unità, abbaiate ma non mordete, cioè che sognavano, che ne so, un crollo del governo forse. Certo, io se fossi all'opposizione cosa aspetterei? Che il governo cada per andare io al governo. Il dibattito c'è sul star dentro, star fuori, la riflessione utilitaristica, concreta, pratica della Lega. Perché fare l'opposizione non ci spaventa, anzi siamo nati all'opposizione, probabilmente è anche più facile stare lì a dire no, stai alla finestra e dici no, così non va bene. La riflessione che stiamo facendo è che perderemmo 3 anni di lavoro fatto, e dal punto di vista del federalismo, che è l'unica riforma economica e fiscale che tiene insieme il paese, si dovrebbe ripartire da capo. Io entro luglio, non c'è nello scadenziario, però c'è un provvedimento importante, anche simbolicamente importante per i cittadini, che è quello dei premi e delle punizioni per gli amministratori che fanno bene o fanno male, tra cui l'incandidabilità a qualsiasi carica pubblica dei sindaci che lasciano buchi di bilancio nei loro comuni. E se far saltare tutto significherebbe ricominciare da capo. Faccio un'ultima battuta sul fatto che voi sparate a zero contro l'immigrazione, Lampedusa eccetera. Ieri è arrivata Angelina Jolie a Lampedusa a lasciarla impronta e a dire: son profuga anch'io, meglio Pontida o Lampedusa. Ma guardi, faccio il cambio con Angelina, datemi una cinquantina di milioni di euro sul conto in banca, poi lascio le mie impronte digitali, mi fingo profugo ovunque e voi mi chiediate di fare. Vabbè, ma dai, questa è qualunque, è ambasciatrice dell'ONU, è venuta lì a dare un'immagine. Vabbè, insomma, che però, per carità, come Lega ogni tanto potremmo usare toni un po' forti, anche io personalmente ce ne dispiacciamo e ce ne scusiamo, però controllare, regolare i flussi migratori mi sembra che ormai anche i tombini si siano resi conto che sia una necessità. A Brescia ci sono dei migranti, perché così ormai si dice, non immigrati, ma ci sono dei migranti clandestini che chiedono permesso di soggiorno per tutti, e c'è una parte di sinistra che al loro fianco dice: è vero, non esiste la clandestinità, occorre dare permesso di soggiorno per tutti. Si rischia di cadere nell'anarchia e nel caos. Ne stavo discutendo questa mattina su Facebook con un elettore del centro-sinistra che però sulla necessità di controllare e regolare le presenze nelle nostre città è d'accordo, al di là dell'unità. Vabbè. Comunque meglio Pontina, nonostante a Lampedusa ci fosse Angelina Jolie ieri. Assolutamente, magari non saranno state altrettanto avvenenti, ma le donne giovani e meno giovani che ho incontrato a Pontina in questi 2 giorni sono eccezionali. Meritavano. Va bene, grazie a Matteo Salvini, grazie per essere stato con noi, europarlamentare della Lega. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi fecondazione assistita in Veneto, vogliono far diventare le mamme a 50 anni, pagano il ticket per fare diventare mamme a 50 anni, mamme a 50 anni. 24 mattino. Allora, in Veneto hanno alzato con una delibera la possibilità per le donne di fare la fecondazione assistita a 50 anni. Mamme a 50 anni. Siete d'accordo? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero?

di per sé ha le sue leggi. Diciamo che una donna è pienamente fertile, raggiunge il massimo della sua fertilità intorno ai 20 anni, quindi ecco perché si era stabilito, anche se la legge parla di donna in età potenzialmente fertile, ma è chiaro che questo si basa su tutta una letteratura, si era stabilito un termine di 43 anni, ora certo. 50 anni sono casi molto rari, diciamo che è più probabile che una donna a 50 anni sia potenzialmente nonna. Una nonna, però, però effettivamente l'assessore ha detto è per questo che vengono fatte le visite preliminari con un medico che dirà: guardi signora, lei magari ha questo desiderio di maternità, però sappia che purtroppo non può farlo perché la situazione biologica non le consente più di farlo. Non c'è dubbio, però è anche vero che le leggi servono anche per evitare appunto speculazioni, cioè noi ci dobbiamo sempre mettere nell'ottica di tutelare i soggetti coinvolti. Ora c'è un altro aspetto che personalmente, va bene, io ero presidente del Comitato Donne e Vita che ha sostenuto l'astensione ai referendum per la legge 40, quindi è chiaro che sono tecniche che comunque per quello che è la mia opinione andrebbero ridotte al più possibile, direi anzi scoraggiate, perché non dimentichiamo che comunque qualsiasi tecnica di fecondazione artificiale comporta ancora, nonostante i paletti imposti dalla legge 40, comporta una perdita di vite umane, comporta comunque sicuramente uno stress notevole anche di salute fisica della donna, quindi io credo che noi come istituzioni dovremmo sicuramente andare incontro a questi desideri, ma tentare di investire in altre direzioni, tipo la prevenzione della sterilità, tipo la cura dell'infertilità, piuttosto che addirittura estendere, diciamo, il parco dei possibili sì, accessi sì. alle tecniche, che oltretutto suscitano anche effettivamente poi disillusioni, perché è chiaro che mano a mano che si cresce con l'età anche il risultato del cosiddetto bambino in braccio è sempre più ridotto. Sì. Ma devo dire che non so, molti ascoltatori ci scrivono e girerò questi messaggi all'assessore Coletto dopo il traffico, anche è una questione di puro egoismo, con che coraggio si dice per esempio a una ventenne, c'è una mamma di 70 anni, o chi dice meglio semplificare il processo per l'adozione. Devo dire che effettivamente sono state più le critiche, il coro di critiche che sono sollevate a questa iniziativa. Ho raccolto solo, non so, il sottosegretario alla salute Martini, diciamo, che positivamente dice è giusto quello che ha fatto, non so se anche per vicinanza e della Lega, insomma, come lei Coletto. Comunque, insomma, più critiche di fronte a questa decisione della quale stiamo discutendo oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, tra l'altro devo dire, il nostro sondaggio su Radio24.it, per ora il 73% dei nostri ascoltatori si dice scettico, negativo nei confronti di questa proposta. Giro l'assessore Coletto questo termine 800240024 per intervenire in diretta. Sentiamo Leonardo da Vicenza, buongiorno. Leonardo è svenuto all'idea di essere chiamato in diretta. Assessore Coletto, adesso recuperiamo la linea con Leonardo. Assessore Coletto, senta, c'è un'età biologica, c'è anche un'età forse psicologica, hanno fatto notare in molti, per cui diventare mamme, cioè non è semplicemente, lei dice vogliamo andare incontro ai desideri delle persone, punto. Ma tutti gli altri aspetti sono stati considerati, presi in considerazione, compreso quello psicologico? Sicuramente l'ho citato poc'anzi quando parlavo di visite preliminari con la presunta futura mamma. Io credo che questo sia un aspetto importante, uno dei tanti aspetti importanti, va come dire, visualizzata, controllata, messa nero su bianco a 360 gradi quella che è la volontà da parte della mamma, della presunta mamma, futura mamma, chiamiamola come si vuole, di andare incontro a questa futura maternità. Quindi oltre, e condivido parte di quello che ha detto la collega, c'è uno stress fisico da parte della donna, c'è comunque uno stress fisico da parte di una donna che sostiene una maternità, a maggior ragione c'è a 50 anni, quindi sono verifiche attente che vanno fatte, sia dal punto di vista fisico, che dal punto di vista biologico, che dal punto di vista naturalmente anche psicologico, perché questa paternità, non c'è un vero dubbio, va protratta e verificata nel futuro. Sì, sì. Certo è che io non mi sentivo in grado di dire di no a una mamma che magari ha una professione difficile, tipo quella del medico, perché no? Che si laurea in tarda età e che finisce il corso di studi con la specialità in tardissima età. Una volta che si è realizzata, magari si trova a 43, 44 anni o 45, avendo superato il limite proposto con... Non potrebbe più, secondo me. Ecco, non potrebbe più affrontarlo. Ci fosse questa volontà, a seguito di verifiche mediche, controlli accurati, soprattutto per quanto riguarda la questione psicologica e fisica, potrebbe si può dare questa possibilità. No, ma la sua posizione è chiarissima, dice cambiano anche i tempi, cambiano i ritmi delle nostre vite, cambiano magari le possibilità di mettere delle priorità in una certa età della propria vita e poi dopo decidere comunque di scoprire un desiderio di maternità in fase più avanzata della vita, e quindi andiamo incontro a questo tipo di esigenza. Sentiamo allora, oltre a Leonardo abbiamo anche Cristina, vorrei partire da Cristina da Padova, vediamo la precedenza oggi è delle donne, magari il parere delle donne è un po' più significativo. Cristina, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Io sono rimasta un po' perplessa nel sentire che la Regione Veneto, che è la mia regione di residenza in questo momento, avesse avuto questa idea, quando a 40 anni l'anno scorso non sono stata chiamata per lo screening mammografico, cosa che la Regione Lombardia fa ormai da tempo. Io vengo dalla Regione Lombardia, mi aspettavo che allo scadere dei 40 anni mi chiamassero per lo screening mammografico al seno. Quindi lei dice che la Regione Veneto a 50 anni chiama per questo. Non è che chiama per quello. A 50 anni c'è il limite, quale una donna, se vuole accedere alla fecondazione assistita, non è che viene chiamata, insomma, visto che c'è l'assessore alla sanità, assessore. No, certo, sono due cose molto diverse. Cristina, la nostra ascoltatrice, si dice stupita, fate un'iniziativa del genere, poi non ha ricevuto una chiamata come Regione Lombardia da quarantenne per lo screening mammografico. Ma guardi, è abbastanza strano, perché in Regione Veneto questi screening li facciamo e li facciamo abitualmente. Dai 40 anni in su arriva appunto la lettera a casa da parte della USL d'appartenenza per fare appunto questo screening mammografico, questa verifica. Quindi vabbè, Cristina, abbia fiducia, non so che dobbiamo dire. È abbastanza strano, verificherò anche questa situazione. Al limite la mettiamo in contatto con la segreteria dell'assessore, cara Cristina. Intanto certo. Leonardo da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Mi sentite? Sì. Benissimo, adesso sì. Ecco, allora intanto all'ascoltatrice che ha chiamato prima di me dico che mia moglie, che ha anche lei 44 anni, a 40 anni ha ricevuto l'invito. Però adesso stiamo andando su un altro tema, certo. Leonardo. Allora, niente, io comunque sono d'accordo a che alcune mamme, fatti salvi i requisiti di cui si diceva, possono diventare appunto mamme tramite inseminazione artificiale. Poi, per quel che riguarda, prima la sua ospite diceva che bisogna pensare ai figli più che ai genitori. Questo sono d'accordissimo, sono genitore di due bambini, quindi questo lo capisco benissimo. E questo però lo diceva per scoraggiare questo tipo di... Io penso una cosa, meglio oggi come oggi, la vita biologica delle persone in generale, delle donne, è aumentata non di poco, le donne si mantengono anche più giovani e tutto. Quindi una volta che si è fatti i controlli non vedo perché no. Poi se guardiamo bene, io preferisco una mamma 50 che ha tante mamme 17enni, 18enni. Va bene. Olimpia Tarzia vuole rispondere anche alle accuse che qualcuno dice, ma insomma si vogliono scoraggiare questo tipo di iniziative, non si capisce magari quanto può essere anche psicologicamente impattante il fatto di desiderare un figlio e non riuscire ad averlo per una donna, e poi dopo cosa succede? Allora si va all'estero, si fanno le fughe nei paesi dove magari sono consentite delle tecniche che in Italia sono vietate e si incoraggiano questo tipo. Non sarebbe meglio fare tutto nella legalità qui in Italia con una maggiore apertura? Io credo che noi sicuramente dobbiamo fare tutto nella legalità in Italia, però non deve essere il motivo per cui facciamo delle delibere o delle leggi il fatto che altrimenti si va all'estero. Cioè, noi dobbiamo vedere cosa ci sembra giusto, e abbiamo visto che tra l'altro seguendo questa direzione altri paesi addirittura si sono adeguati a nostre normative, proprio penso alla legge 40. In ogni caso, per rispondere a Leonardo, la vita direi che la vita sociale delle donne è evoluta, ma la vita biologica resta la stessa, cioè la natura, la fertilità femminile ha i suoi ritmi e sono quelli che fanno parte proprio della natura femminile, quindi da questo punto di vista è evidente che noi siamo tanto preoccupati giustamente per l'ambiente, l'ecologia eccetera, dovremmo forse fare più attenzione all'ecologia umana, sì. Quindi rispettare quella che è una fisiologia naturale, cioè i diritti dei figli, quando dicevo prima un bambino ha diritto ad avere una mamma che non solo lo partorisca, ma che sia in grado con tutte le sue energie e risorse di seguirlo nel corso degli anni, e questo diciamo la natura ha fatto le cose in un certo modo, quindi questo, in questo, vogliamo in questo... essere, diciamo, rispettare l'ambiente, credo che il primo ambiente dovremmo rispettare quello umano. In questo noi uomini siamo un po' favoriti o sfavoriti, le dice, perché possiamo farli magari a 60-70 anni, poi ci sono dei casi pietosi anche, no? Rispetto a quello che diceva l'assessore, io credo che noi dovremmo veramente investire di più, e qui parlo come responsabilità delle istituzioni, ecco, piuttosto che magari seguire così le emozioni che ci ha dato la Nannini su questa cosa, di cui si sono riempiti i giornali, seguire di più invece davvero tanti bambini in attesa di adozione, magari anche un po' più grandicelli, incoraggiare questo percorso, aiutando anche, perché esiste anche una maternità e paternità che è assolutamente piena, che non necessariamente passa per la fisiologico. Allora, io mi devo fermare qui ringraziando l'assessore alla Regione Veneto della Sanità Luca Coletto e Olimpia Tarzia per essere stati con noi, consigliere regionale del Lazio. Allora, continuate la discussione su Facebook, a chi ci dice ma Pontida, non parlate di Pontida, ma abbiamo parlato di Pontida con Salvini fino alle 8:30, adesso ne parla Oscar Giannino alle 9 e basta sta Pontida, cioè, il mondo appeso a Pontida, che come scriveva Michele Serra, che non è Parigi peraltro. Grande rispetto per tutti gli abitanti di Pontida, gran bel posto in provincia di Bergamo, andate tutti a Pontida per il turismo. Ci fermiamo con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Paolo Corleone in regia. La linea a Oscar Giannino su Pontida, e noi domani alle 7:20.